Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A San Pietroburgo con Elena Kostiukovic. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Stanno per finire i nostri appuntamenti con gli scrittori. Ormai abbiamo visitato gran parte del mondo attraverso le loro parole e, dando uno sguardo indietro, mi sono accorta che, pur avendo fatto un giro in Russia, non abbiamo approfondito nessuna delle sue città. Così ho pensato di farmi portare nella città che più di tutte mi intrigherebbe vedere, anche perché conosciuta solo attraverso un grande interprete della letteratura russa, Dostoevskij. E quella città è San Pietroburgo. San Pietroburgo è la più europea di tutte le città russe. Sorge sulla foce del fiume Neva e si affaccia sul Golfo di Finlandia, Mar Baltico. Fin da quando fu fondata nel 1703 dallo zar Pietro il Grande, San Pietroburgo è stata, oltre che la porta d'occidente del paese, anche una delle più belle città del mondo, ricchissima dal punto di vista culturale. La città è stata costruita su progetti di grandi architetti europei con grandissimo sfarzo. È composta da un insieme di isole e isolotti, divise dai diversi bracci della Neva e da numerosi canali attraversati da ben 600 ponti che collegano tra loro i vari quartieri. È la seconda città della Russia, dopo Mosca, per numero di abitanti. Condivide con essa il primato come centro culturale ed economico. Troppo facile farmi portare da un compagno di viaggio italiano sulle rive del Neva. Decido invece di affidarmi a una scrittrice e traduttrice russa, Elena Kostiukovic. Quando ci incontriamo è da poco tornata da San Pietroburgo. C'è andata in occasione di un convegno per scrittori italiani e con lei c'è Massimo Montanari, che, proprio come ho intenzione di fare io oggi, si è fatto accompagnare alla scoperta della cosiddetta Stella del Nord attraverso i suoi racconti. Chi ha visitato San Pietroburgo sicuramente ha visto delle rive meravigliose del Neva che sembrano il Canal Grande veneziano, perché quando vai lì in barca, e noi siamo andati lì in barca perché io volevo assolutamente soddisfare tutte le sue curiosità e spiegare un po' come l'aura di questa città, l'atmosfera, la storia, la bellezza. Quindi da questo canale, dal Neva, che d'altronde era pieno di ghiaccio, perché in questo momento si rompevano le grosse formazioni di ghiaccio invernale, quello robusto che permette anche di andarci sopra in automobile, tanto tutto l'inverno le macchine, le persone, i cavalli, quello che volete, le slitte passano direttamente sul ghiaccio del Neva, e adesso si stava rompendo. Infatti era il primo giorno della navigazione, i grossi pezzi del ghiaccio navigavano nelle acque. Un fiume sul quale si può camminare e andare con la macchina e che in maggio, quella la data del mio incontro con Elena, ha appena cominciato a sciogliersi. Beh, il clima non è certamente quello per cui mi sono voluta far portare qui. In questa città è impossibile vivere, si può ammirarla, ma è molto difficile esistere in questo clima, prima di tutto, perché è una palude. Su questa palude ci sono sontuosi palazzi barocchi europei costruiti da architetti italiani nel XVIII secolo, invitati da Pietro il Grande, poi da Elisabetta, poi da Caterina, insomma da tutti gli imperatori russi che volevano la grandeur europea trasportata in questo luogo molto strano. Però è una palude, quindi la gente moriva anche lì di tubercolosi, di malaria, di tutte le malattie che nascono nella gente che vive sull'acqua, in questo clima malsano, molto freddo. Infatti vi ho accennato che una settimana fa, due settimane fa, c'era ancora il ghiaccio sul fiume. Thank you. L'accompagnamento musicale per una visita a San Pietroburgo non può che essere musica classica, visto che qui sono cresciuti Stravinsky, Tchaikovsky, Nureyev e Baryshnikov, solo per citarne alcuni. Elena, col suo accento russo così inconfondibile, mi vuol far partire dalla storia di questa città, dalla sua nascita, per farmi comprendere appieno quale sia la sua natura. Quindi com'è nata questa idea? Quando Pietro conquistò un pezzo di terra che prima apparteneva agli svedesi, durante una, cioè dopo una guerra, una battaglia, tutto questo è successo nel 1701-1700, dal 1703 esiste San Pietroburgo già subito come capitale della Russia. Potete immaginare che un sovrano dichiara capitale un posto che consiste da due casine di legno e una barca che va da una riva del fiume all'altra per comunicare tra l'imperatore che sta in una isba di legno dalla parte destra sulla riva destra del fiume, e sulla riva sinistra c'è il suo miglior comandante dell'esercito, quindi, e c'è una barca che funziona così. Poi il resto, la capitale non esisteva, non c'era nulla, ci sono stati tantissimi contadini, migliaia, decine di migliaia di persone che a forza proprio, come si manda la gente in galera, li mandavano a costruire e abitare questa nuova città. Un'operazione culturale quindi alla base della costruzione di questa città, prosegue Elena, una città nata dall'intenzione di costruire il mondo nuovo, una nuova filosofia, uno stato completamente diverso, quasi paradisiaco, ma in un luogo decisamente difficile. Elena ne parla come di una grande sfida contro le forze della natura, ma anche contro l'inerzia dello Stato. Il nuovo sovrano decide di punto in bianco che sia tutto diverso, che si cominci una nuova vita, e così costruisce la nuova capitale. Quindi paradossalmente qui uniscono le aspettative molto ottimistiche e forti della gente che veniva ad abitare, perché venivano ad abitarci naturalmente tutti i nobili, dovevano farlo. Si costruiva le case di pietra solo a San Pietroburgo, perché era vietato in questo periodo dallo zar costruire le case fatte di pietra in qualsiasi altra città della Russia, compresa Mosca, visto che stone è proprio il materiale di cui è stato formato questo nuovo mondo architettonico, questa nuova estetica cittadina, e lui non voleva che e d'altronde era la pietra su cui si costruiva il nuovo paese, perché è un imperatore cosiddetto progressista, che importava un po' le metodologie, le idee, così si pensa, dall'Europa in Russia, no? E quindi su questa pietra lui fondava la sua nuova chiesa, se vogliamo, chiesa laica, chiesa statale. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A San Pietroburgo con Elena Kostiukovic. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono a San Pietroburgo in compagnia di una scrittrice russa, Elena Kostiukovic. Il fatto che non sia italiana la mia accompagnatrice di oggi mi è sembrato un modo nuovo di viaggiare, e infatti mi ha già fatto vedere la città voluta da Pietro il Grande e soprattutto i suoi abitanti da un punto di vista inaspettato. Una delle cose che mi ha fatto sorridere e allo stesso tempo riflettere è questa sua visione dei russi, popolo che rende al meglio quando è costretto a fare dei sacrifici enormi perché ha bisogno di soffrire per sentirsi vivo. Cioè, la parola comfort in Russia è quasi inesistente, o a volte considerata anche pregevole, perché si dice sì, è un ambiente confortevole, come per dire è un ambiente stupido. Cioè, noi siamo eroi, noi dobbiamo sfidare le forze della natura. Non so se vi ho raccontato bene questa storia di San Pietroburgo, proprio una sfida. Cioè, noi su questo nostro sacrificio noi fondiamo anche il nostro, la nostra personalità. Siamo persone in quanto siamo capaci a fare una impresa eroica. Non è che siamo persone perché siamo capaci a curare l'orto oppure educare bene i nostri bambini. Cioè, infatti, questa è una cosa un po' come dire superflua, non tanto importante. Un commento di questo genere poteva darmelo solo una compagna di viaggio russa. Non che aggiunga molto alla bellezza di una città come San Pietroburgo, certo è che può servire a capire molte altre cose. Oggi San Pietroburgo è più o meno la stessa cosa, perché la bellezza struggente di questo barocco europeo sembra un po' innaturale, come dire, insolita, nel clima comunque molto, molto difficile, e la città è abitata dalla popolazione che è stata importata negli ultimi anni dalla periferia dell'impero sovietico, che non esiste più, quindi si è dissipato, si è sciolto, e molta emigrazione da tutte le parti, che la gente si cerca delle nuove professioni, nuovi mestieri, quindi di nuovo un melting pot, di nuovo tutto ribaltato. I vecchi pietroburghesi tu non li vedi. Dove sono finite le vecchie famiglie pietroburghesi, o è meglio dire leningradesi? E sì, questa città, oltre ad essere un'operazione culturale, come l'ha definita Elena Kostiukovic, è stata anche negli anni un grande esercizio di toponomastica. Durante la Prima Guerra Mondiale diventa Pietrogrado, per trasformarsi, alla morte di Lenin, in Leningrado, per poi tornare al nome originale con la crisi del regime comunista. Insomma, tanti nomi differenti a indicare però la stessa magnificenza. Di solito non mi faccio dare indicazioni da guida turistica del tipo quale museo mi consigli di vedere, in quale ristorante è meglio mangiare, ma preferisco rimanere su suggestioni che lo scrittore vuole darmi con la descrizione dei colori, dei suoni, delle atmosfere di un posto. Eppure con Elena non resisto. Il suo modo di parlare dei russi e delle meraviglie russe, con il suo accento decisamente russo, mi solletica. Da dove cominciamo quindi? E lei parte con il Museo di Stato dell'Ermitage, museo che non si può fare a meno di visitare, nelle fantasie barocche verdi e bianche del Palazzo d'Inverno, il più grande tra gli edifici che lo costituiscono. Ermitage è stato sempre, e lo è adesso, uno dei musei più importanti del mondo. Ci sono tutti i quadri europei che hanno comprato gli imperatori, che poi rischiavano anche, durante tutte le rivoluzioni naturalmente, rischiavano di essere danneggiate, perse tutte queste ricchezze culturali, però quello, e molte cose sono sparite, anche rubate, però quello che rimane adesso è comunque, basta comunque per un turista per starci 2 o 3 giorni solo all'interno del museo Ermitage. C'è una strana costruzione barocca bellissima che si chiama Kunstkammer, che è la Wunderkammer, sono quelle collezioni di cose naturali mostruose e ammirabili, che nel 600 europeo si sono formate in molte capitali europee, a partire da Vienna, c'erano a Dresda, insomma c'erano questi grandi musei, grandi o piccoli musei, dove potevano essere mostre della natura, animali spacciati per animali mitologici, cioè un rinoceronte spacciato per unicorno, insomma tutte queste cose. Anche nella semplice descrizione di un museo non manca nella sua voce quell'ironia nei confronti delle bizzarrie tutte russe. E se si parla degli zar, le bizzarrie, sembra quasi un gioco di parole, possono davvero raggiungere livelli inaspettati. Pietro collezionava anche persone vive. Sì, perché un imperatore russo non è che ci faccia troppo caso, sei vivo, sei morto, se ci serve morto lo facciamo diventare tale, oppure se no lo prendiamo vivo, lo mettiamo nella gabbia e andiamo a vederlo. Tutte le donne barbute, la gente con quattro nasi, insomma tutto ciò che loro trovavano. La Russia era grande, era ed è molto grande, di mostri ce ne sono. Guardate la televisione russa, ci sono anche quelli che non sanno di essere mostri, ma lo sono. Quindi Pietro ha formato il museo comprando molto all'estero, mettendo anche gli orrori russi tutto insieme, ed era sorvegliato. In questo museo c'erano anche dei nani, oppure invece giganti o donne barbute che sorvegliavano, che lavoravano lì in qualità di custodi. Questo è visitabile e non so chi lo sorveglia oggi, non ve lo posso promettere, ma penso che vedrete delle facce interessanti. Quindi questo è un altro museo notevole, sì, a San Pietroburgo. Sicuramente una città come questa, per capirla, bisogna prima preparare il viaggio. Ma se un viaggiatore, un futuro viaggiatore che vuole andare in Russia, almeno si prepara su due o tre piccoli testi di Dostoevsky, legge i racconti di San Pietroburgo di Gogol, questi due momenti lo possono già orientare a che cosa lui va a incontrare. Va a incontrare una città piena di conflittualità interna, con della popolazione che ha del tragico, dell'infelice nell'animo, che ha sofferto molto, e questo è descritto dagli scrittori che vi ho nominato, Dostoevsky e Gogol. Ottime traduzioni italiane esistono, ripubblicano sempre, quindi non è difficile comprarle anche in edizione economica. E questi scrittori sono vissuti nella seconda metà dell'Ottocento, quindi sono passati quanti? 140 anni. L'atmosfera è la stessa. San Pietroburgo, la metropoli più settentrionale del mondo, la città delle notti bianche. Vero, le notti bianche descritte da Dostoevsky. Come non ricordare quel libro, primo vero compagno di viaggio, almeno per me, di questa città. E poi il film di Luchino Visconti tratto dal libro. Solo al pensiero sento la stessa felicità di Mastroianni che interpreta il protagonista mentre è sotto la neve. Credi, sono un'altra persona. È la fiducia, la... Insomma, ho capito tutto, anche se non lo so spiegare. Vedi? No! Questa città prima mi sembrava cupa, triste. È colpa mia. Perché ecco che a un tratto tutto diventa festa. Basta che noi lo vogliamo. Basta che qualcosa che è dentro di me lo voglia. E la ragazza che io amo diventa la mia sposa. Ecco, tutta vestita di bianco. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A San Pietroburgo con Elena Kostiukovic. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Elena Kostiukovic è con me a San Pietroburgo, la città voluta da Pietro il Grande, piena delle contraddizioni e delle meraviglie di questo grande paese che è la Russia. Il fatto che anche Elena sia russa mi agevola nella visita, perché oltre alla descrizione delle bellezze architettoniche, c'è anche quella delle stranezze dei russi, russi visti dal di dentro, il che non guasta se si vuole avvicinare con lo spirito giusto la città e i suoi abitanti. E poi ci sono questi miti, queste storie, c'è una storia bellissima di come la, raccontata da Pushkin, fantastica, ma forse vera, chi lo sa, come la statua di Pietro, quella statua che vedono tutti i turisti, di notte scende dal suo piedistallo e con gli zoccoli che fanno, come dire in italiano, fanno cosa? Click, cock, corre a inseguire, anche a punire chi l'ha usato, a guardarla male con la faccia un po' scontenta, perché il sovrano che ha fondato questa città e che non vuole sentire le opinioni del pubblico, come dire. Poi c'è la statua che corre, la rivolta, bellissima storia, la rivolta dei nobili contro lo zar, che si chiama la rivolta dei decabristi. E di questa, comunque, ognuno che va a San Pietroburgo sentirà tante storie, perché la guida locale non può immaginare che qualcuno può vivere senza aver già conosciuto la storia dei decabristi, per cui continua a dire: qui il decabrista chiamato Muravyov viveva, qui invece il decabrista chiamato Rylejev è morto. E per non essere imbarazzati da questa guida gentile che continua a bombardarvi con delle informazioni sulla gente di cui voi non sapete niente, aprite Wikipedia su decabristi. Questo è il mio grandissimo consiglio. Non facciamoci trovare impreparati allora sulla storia dei decabristi. L'assedio di San Pietroburgo è una triste cosa, non mi va neanche a sorridere e scherzare su questa storia. Va, secondo me, studiato, non dico studiato, ma comunque un po' di informazioni su questo tristissimo episodio, perché veramente un anno e mezzo. Io ho giudicato che una persona veramente molto acculturata, come il mio collega Massimo Montanari, infatti, di cui ho parlato adesso, con cui ho fatto il viaggio, con altre persone, con sua moglie, naturalmente con altre persone del mestiere, ma soprattutto lui che faceva le domande, e che lui comunque non capiva come mai una città si racconta l'assedio di San Pietroburgo è così. 900 giorni senza arrendersi all'assedio nazista. Beh, il nome di città eroica, tra tanti altri, se l'è proprio guadagnato. Inizia a settembre del 41, è circondata la città dai tedeschi. I russi quasi non arrivano lì da Mosca, insomma, da tutte le parti, non portano dentro né cibi né nulla, non aiutano. E lì dentro un milione di popolazione sta dentro in questa cerchia di assedio per più di un anno, morendo di fame, mangiando. Prima mangiavano animali domestici, poi libri, perché i libri hanno una parte, i vecchi libri avevano una parte fatta in pelle, quindi si può fare una minestra con questa colla. No, ma io non scherzo, guardate, mangiavano la terra in cui poteva, cercavano di trovare i residui magari di qualche cibo, la prendevano lì dove c'erano prima i depositi di zucchero. In questa terra si presumeva. Poi mangiavano, insomma, non voglio dirvi cosa mangiavano dopo, ma alla fine l'assedio è stato tolto un anno e mezzo dopo il suo inizio, quindi chi è rimasto vivo sono pochissimi, ci sono ancora. Io ho incontrato, in fattispecie, mio prozio, che era adolescente nel periodo che vi racconto, che mi ha raccontato molto di come andava, di cosa è successo in questo periodo. Però voglio dire, anche di questo un turista che magari arriva a San Pietroburgo sentirà molto. Questa è una memoria molto forte. Ma torniamo al discorso dell'inizio. Un russo quando soffre è eroico. No, è una cosa veramente bellissima. Il problema è che non esiste la cultura dell'organizzazione della normale vita quotidiana. E questo va bene, il turista probabilmente non soffrirà, perché sarà in un suo bel albergo con la reception, qualche consiglio in inglese, insomma. Però un suo altro consiglio è di imparare almeno un po' di cirillico, non il russo, ma solo i caratteri dell'alfabeto per non trovarsi poi in difficoltà. E che ne dica Umberto Eco? Non ci vuole poi così tanto tempo, pare. E nel libro di Umberto Eco, in cui lui dà dei consigli di come scrivere, come vivere agli studenti, che io ho tradotto in russo, come d'altronde moltissimi altri libri di Umberto Eco, ecco, in questo libro per studenti lui dice che bisogna impiegare 3 ore per imparare il cirillico, ma probabilmente lui lo dice perché è già un po' adulto, perché forse i giovani ci mettono un'ora. Veramente è molto facile. Io consiglio a tutti i turisti di cercare di, insomma, di coprire le spalle almeno con questo, per vedere se la porta si apre o si chiude, in quale modo, dove correre. Tutto questo in realtà si può capire se tu riesci a capire la scritta. I turisti sono comunque molto seguiti dalle guide, come prosegue Elena, ma un altro consiglio che vuole darmi è di non stupirsi se a troppe domande rispondano con un po' di distacco. Sono comunque gente poco abituata a raccontarsi. Pur essendo la città russa più europea per via dell'architettura, non lo è dal punto di vista della storia del suo popolo. Sono molto colpiti sicuramente dalla sono accuditi dalle guide, che sono cordiali e formali nello stesso tempo, e che non si riesce, per gli italiani non riescono assolutamente a capire se le informazioni che arrivano sono solo quelle per l'estero e dove comincia la vera vita. Infatti è come andare sempre contro un muro, contro uno specchio, contro qualcosa di molto rigido. Quindi gli italiani, essendo gente molto cordiale, che ama entrare nei dettagli, fa sempre delle domande alle guide che si sentono sempre più arrigidite e sulle difese. In realtà la conversazione di solito inizia in maniera molto gentile e finisce con un freddo totale Ma poi però bisogna insistere, bisogna cercare di capire veramente che cosa pensa la gente. La gente non è abituata a raccontarsi, cioè non è una città europea. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A San Pietroburgo con Elena Kostiukovic. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Il mio primo compagno di viaggio per San Pietroburgo è stato Dostoevsky, attraverso i suoi libri. Oggi sono con Elena Kostiukovic, una scrittrice e traduttrice russa, che con la sua voce mi sta facendo fare un tour della città di Pietro il Grande. Anche lei ha comunque consigliato, come preparazione alla visita, di leggere sia Gogol e sia appunto l'autore delle Notti Bianche, tanto per avere un'infarinatura dell'atmosfera che da più di 150 anni si respira immutata qui sulle sponde del Neva, tra difficoltà e momenti magici. In Europa uno che viaggia si trova più o meno sempre nelle situazioni abituali, anche dal punto di vista quotidiano. Le compere si fanno con facilità, un italiano non ha problemi di comprarsi delle cose in Spagna, vero? Ma quando arriva in Russia, anche in Polonia, insomma, in tutti i paesi che sono stati prima, appartenevano al blocco sovietico, non capisce perché il commesso si comporta in questo modo ostile. Il commesso si considera un pochettino umiliato a fare il commesso, perché è cresciuto nelle idee di uguaglianza, fraternità e libertà, un po' francesi russoistiche, se vogliamo. E quindi perché uno deve servire all'altro? Il fatto che il suo lavoro non li tocca e comunque vorrebbe essere qualcun altro. Quindi tutto questo, come dire, piano di adesso i giovani sono un po' diversi, ma prima, nei miei tempi, proprio affrontare le difficoltà quotidiane per i turisti era molto difficile. È comunque quasi sicuro che tutti si portino a casa il desiderio di approfondire e poi di tornare. La sensazione che lascia il primo viaggio a San Pietroburgo, secondo Elena, è di non averne avute abbastanza di emozioni e di voler ripetere il viaggio, magari dopo una preparazione più accurata sulla storia della città e del popolo russo in generale. Io penso che il secondo viaggio in Russia è sempre molto bello. Cioè, bisogna fare il primo viaggio per capire più o meno quali sono le domande che il turista si farà anche a casa quando torna, poi riempire le lacune, prepararsi un po' meglio, e la seconda volta è ottima. Veramente la gente è felice quando viene seconda volta dopo aver già visto la prima infarinatura, è già, diciamo, fatta. Quindi qui si sciolgono, il cirillico lo imparano, perché capiscono che senza il cirillico comunque non si va da nessuna parte, perché i russi non so perché non mettono le scritte in caratteri latini. La città è piena di turisti, ci sono solo turisti, cioè in realtà non si vede dove è la popolazione, però le scritte sono in cirillico. Imparare il cirillico, secondo Elena Kostiukovic, è quasi una necessità se si vuole davvero entrare nello spirito di una città come San Pietroburgo, anche solo per muoversi con facilità nei musei. Ma la lettura dei caratteri non è l'unica difficoltà che bisogna superare. Un turista si porta dietro la sensazione anche di aver superato molte difficoltà, che è molto bello perché è una specie di turismo estremo. Cioè, sono stati lì e faceva 30 gradi sotto zero. D'altronde io devo dire al pubblico italiano che l'ultima cosa da preoccuparsi sono 30 gradi sotto zero, perché comunque sono sempre delle atmosfere molto asciutte, nel senso che l'umidità, quella famosa umidità invernale che in Italia ti ammazza, in Russia è praticamente assente. Quindi se sono 10 gradi sotto, 30 gradi sotto, la sensazione è più o meno la stessa. Copriti, insomma, non è che vai nudo e basta. Questo non è un problema. E noi non ci faremo spaventare dalle temperature. Anzi, la bellezza di questo viaggio è che è un pochettino scomodo. Essendo un pochettino difficoltoso, ti rende molto più felice quando torni indietro e dici: ma io sono stato con questa temperatura fuori tutta la giornata, ho fatto delle passeggiate e niente, ho incontrato dei russi che mi hanno fatto bere vodka a bicchieroni interi a inizio del pranzo, perché i russi non capiscono perché vodka è per la fine pranzo, perché per la torta, no? Vodka si pasteggia con vodka in Russia. E io niente, sono vivo dopo tutte queste sbronzate. Io sono stato nei musei molto difficili con tutte le scritte cirilliche, niente, io felicemente sono tornato, ho capito anche dove Rubens, dove Raffaello. Cioè, sono queste piccole vittorie che poi rendono una persona estremamente contenta, perché dopo un viaggio in Polo Nord, insomma, uno torna molto sicuro di sé. Piccole vittorie che rendono questo viaggio ancora più denso. Mi allontano con la mente per un attimo lungo la prospettiva Nevskij, gli Champs-Élysées russi, tanto per fare due passi e riflettere su quello che ho appena visto. Un turista incuriosito in Russia sta benissimo. Il secondo viaggio forse tira il terzo viaggio, eccetera. Un turista che va lì solo per dire io ci sono stato, niente, torna vivo a casa, non gli succede niente di male. Ma io non so se per questo turista sto dando i consigli, probabilmente il nostro pubblico è curioso, entusiasta, interessato. E benvenuti in Russia, in questo caso voi avrete tanto da imparare, da raccontare, da sapere, da comunicare. E allora, presa questa di oggi come la prima visita a San Pietroburgo, non mi resta che tornarci una seconda o addirittura una terza volta. Non potrò che trovarmi bene, perché per dirla all'abbatiato, il mio maestro, in questo caso Elena, mi ha insegnato quanto è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire, e insieme l'abbiamo trovata. E chi la lascia più adesso? O come direbbe Dostoevskij, Dio mio, un intero attimo di beatitudine. È forse poco, anche se resta il solo in tutta la vita di un uomo? Ora Elena Kostiukovic è in libreria con Perché agli italiani piace parlare di cibo, edito da Sperling & Kupfer. Compagni di viaggio. Testi di Morena Rossi, voce di Adele Pellegatta.